Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Non è stata accidentale la caduta di Domenico Mauro Antonio da una finestra al quinto piano dell'hotel Leonardo di Bruzzano, alla periferia di Milano. Le indagini sulla morte dello studente di Padova nel capoluogo lombardo per una gita scolastica ad Expo hanno portato gli inquirenti ad escludere questa ipotesi, soprattutto alla luce dei primi esiti dell'autopsia. E poi ci sarebbero le caratteristiche della finestra da cui il giovane è precipitato. L'altezza dal pavimento al davanzale è di circa 1 metro e 10 centimetri. Cosa può dunque essere successo? Tra le 5 e le 6.50 di domenica mattina il 19enne non era solo. La sensazione è che i compagni di classe si stiano coprendo gli uni con gli altri. Secondo gli investigatori, quella mattina qualcuno ha afferrato le braccia di Domenico con una forza tale da lasciargli dei lividi. Qualcuno deve averlo tenuto e potrebbe aver perso la presa. La morte di Mauro Antonio potrebbe dunque essere stata una goliardata finita in tragedia. Gli uomini della scientifica si stanno preoccupando di verificare... Questo è tutto quello che ci è dato al momento di sapere e non mi interessa entrare ancora di più nei particolari di cronaca di questa disgraziata vicenda in cui una famiglia si è vista tornare dentro una bara di legno, come dice la madre, il corpo del figlio che loro avevano affidato alla scuola per una gita scolastica. Vorrei solo osservare questa vicenda alla luce della mia esperienza personale di gite scolastiche, sottolineando il fatto che sono un ragazzo dell'anno 1954. Quindi immaginate quando io abbia passato un'esperienza simile a quella che oggi porta gli inquirenti a interrogarsi di cosa sia accaduto in quell'albergo, nella periferia milanese, in quella scolaresca di ragazzi padovani di un ultimo anno di liceo scientifico che erano andati a vedere l'Expo. Vi dico i punti in comune con la mia esperienza personale. Dicono gli inquirenti che il ragazzo probabilmente aveva dei problemi di tipo intestinale perché a lui erano stati somministrati dei lassativi. Anche noi davamo il Guttalax a tonnellate nei primi anni 70 a quelli che volevamo prendere della scolaresca particolarmente sotto attenzione. Andavamo tutti in gita scolastica con lassativi al seguito, perché il divertimento era di noi scapestrati ragazzi degli anni 70, liceali negli anni 70, dare il Guttalax ai ragazzi. Leggo nella paginona della stampa dedicata a questi eventi, sono vari pezzi, un insegnante di Ivrea che parla di gite scolastiche non accettate dalla scuola e invece incentivate, incrementate la volontà dei genitori. In particolare i ragazzi di una scuola di Ivrea sarebbero dovuti andare in gita scolastica a Venezia. Venezia per loro era troppo poco, voleva andare a Praga dove andava un'altra scuola. Consenzienti i genitori hanno disertato la scuola per una settimana e sono partiti tutti per Praga. Io andai in gita scolastica, ricordo ancora, in terza media a Venezia e gli anni successivi di ginnasio andammo a Praga. Ma possibile che dopo 50 anni, 50 no, ma 40, 45 sì, ancora la scuola faccia esattamente gli stessi rituali ormai inutili, stracchi, passati, di portare ragazzi a fare la gita scolastica. Poi potete chiamarli come volete, periodi di approfondimento scolastico attraverso la conoscenza di nuove città, ma io... Povero disgraziato ragazzo abitante alla periferia rurale di una città come Perugia, magari andare a Venezia in terza media era un evento che i miei non mi ci avrebbero mai portato. Ma oggi mi dite, per dei ragazzi che hanno uno smartphone in tasca dove si prenotano i biglietti con l'occasione più conveniente per loro per andare ovunque, possono andare ovunque, possono tornare la notte quando gli pare, possono viaggiare, sanno già 10 lingue, che bisogno c'è che la scuola li porti a Venezia e li porti a Praga? Ha ancora senso fare le gite scolastiche? 800240024. Anni fa, con una gita con dei professori, la nostra è una classe scuole medie, abbiamo preso una stanza e abbiamo compiuto gli atti più terribili che si possono immaginare dentro quella stanza. Abbiamo sventrato materassi, sventrato comodini, cassetti, sedie, poltrone, tutto, tutto. E oltre a questo abbiamo, si può dire, urinato un po' da tutte le parti sostanzialmente. E oltre a questo abbiamo fatto anche di peggio, adesso senza... potevamo andare nel macabro, macabro insomma, sono schifoso. Eppure nulla di tutto questo è mai stata una notizia. A quel tempo se avessimo avuto un videocellulare avremmo ripreso sicuramente tutto quanto, forse sarebbe stata una notizia, forse sarebbe stato riportato da qualche parte in qualche giornale, niente di cattivo, ma insomma eravamo lì con i professori nell'altra stanza e abbiamo creato il panico, ecco. 800240024, ma arriva il primo messaggio via SMS. In gita noi salivamo sul tetto, uscivamo dall'albergo calandoci dai balconi, i professori potevano fare poco, non uscivamo alle 23 ma alle 3 di notte. Primo messaggio che è arrivato conferma ancora una sorta di rituale excursus che si ripete anno dopo anno, sin da, immagino, il dopoguerra in poi, sin da quando la prima riforma scolastica ha deciso si facevano queste gite scolastiche, facevano parte comunque dei programmi. Io ho citato gite scolastiche degli anni 70, ma pare non cambiato nulla. Il salto dal balcone, anche noi saltavamo dal balcone, io per fare lo sbruffone saltavo dal balcone, mi arrampicavo sul grondaio, ho fatto di tutto. La trasgressione etilica, questi ragazzi pare che avessero un po' alzato il gomito. Vi ho risparmiato le cronache dell'oscuro lato delle gite scolastiche degli ultimi anni. Ci sono ragazzine tornate incinta, ragazzi in coma etilico, episodi di tutti i tipi, albergatori che si lamentano, caselli dell'autostrada messi a soqquadro, insomma la gita scolastica nella sua classica, che io non rinnego e trovavo molto costruttiva e molto importante nei tempi passati, nella sua classica struttura, è un momento di trasgressione, quasi un passaggio iniziatico, uno di quei momenti da cui naturalmente la società contemporanea si è lentamente allontanata, che servono per segnare un passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Lo dice anche un'altra professoressa, una mamma anzi intervistata sempre dalla stanza di Torino, che coordina un movimento ai genitori, dice: è un rito di passaggio che deve essere mantenuto, aiuta i ragazzi a crescere. Sì, li avrebbe aiutati a crescere quando i ragazzi per la prima volta nella vita escono di casa, un po' come nei decenni precedenti era andare a fare il servizio militare, cioè la gente non vedeva mai oltre lo stazzo dove pascolava le proprie pecore per tutta la vita, quindi andava a fare il militare e girava il mondo, andava a Cuneo, andava nei posti più assurdi. Ho fatto il militare a Cuneo, una famosa battuta di Totò. Alex, buongiorno. Eccomi. Alex, eccomi. Sì. Voglio, hai un'esperienza di tue gite scolastiche? La più che altro è un'esperienza di riflesso di mia figlia, nel senso, io ho una bambina di 9 anni che fa la quarta elementare, ovviamente. Quest'anno i genitori più che gli insegnanti erano tutti euforici perché i bambini andavano 3 giorni a Pestum da Roma, ovviamente. Cioè, altra classica gita scolastica, Pestum, sì. Esatto. Come ora, San Marino, noi che abitavamo in Umbria andavamo a San Marino, a Roma sì. Si va a Pestum, sì. Sì, esatto. Ora, a parte il fatto che spesso mi sembra più che siano i genitori che vogliono togliersi di torno i bambini. Tre giorni senza i bambini piccoli in casa, riaccende i fuochi spenti di un matrimonio minato da una giovane presenza. Questa è la mia ipotesi principale. Secondo me è assurdo, innanzitutto lo spacciano per campo scuola, adesso va molto di moda questa frase, no? Li mandiamo al campo scuola. Ora, per me un campo scuola è un ambito abbastanza circoscritto nel quale insegnanti e discenti stanno lì tranquilli, fanno attività ludiche e didattiche e sono protetti all'interno di una struttura, che poi siano tende o bungalow o quello che sia, poco importa. Mandarli 3 giorni a Pestum con 4 ore e mezzo di pullman ad andare, altre 4 ore e mezzo di pullman a tornare per fare le corse il primo giorno, a vedere gli scavi e il museo, e poi gli altri 2 giorni a spasso per le oasi naturalistiche, mi sembrano cose per le quali i bambini di 9 anni stare fuori 3 giorni fuori casa mi sembra. E allora qui prodes qual è? Che le mamme vogliono levarsi dalle scatole per 3 giorni, quindi si inventano la gita. Secondo me sì, perché poi dicono, sai, al ritorno da queste gite diventano molto più maturi. Ma a parte il fatto che secondo me la maturità di un bambino gli viene insegnata dentro casa a 9 anni, più maturo che poi, ecco. Cioè non è che deve, vabbè. Esatto. Mandateli anche se vanno con... Sì, ma posso dire una cosa, ci sono mille modalità in cui la famiglia può organizzarsi, perché esatto. Deve pensarci la scuola, esatto, la scuola esatto. Deve fare altre cose. Luigi, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Nell'84 io sono partito dall'aeroporto Kennedy di New York. A bordo c'erano dei ragazzi, una scolaresca, e dopo mezz'ora, tre quarti d'ora dalla partenza dall'aeroporto di New York, questi ragazzi che erano già saliti a bordo abbinazzati, quindi ubriachi, già ubriachi prima di partire, più di uno è stato male, ha vomitato, e quindi una ragazza che era davanti a me, ebrea, è stata male fino a Milano. È stata male veramente. Ma il fatto, la sua religione non, sarebbe stata male anche se cristiana, musulmana, buddista. Sì, sì, no, bene. Cioè il vomito fa vomitare tutti. Abbiamo saputo dal papà. E il papà ha protestato vibratamente con lo steward. Lo steward ha interessato i responsabili della scolaresca, i quali una volta arrivati alla Malpensa hanno preso i ragazzi e li hanno riportati a casa e hanno assicurato non solo il papà della ragazza, ma tutti gli altri occupanti l'aereo, che sarebbero stati puniti e allontanati dal liceo tutti questi ragazzi. Ecco, io credo che questi viaggi siano veramente una... non servono a niente. Non voglio passare per quello che non sono, non sono un moralista. È normale che con l'età, ragazzi, gli piace fare bisboccia, gli piace ubriacarsi in gruppo, gli piace fare le ammucchiate con le compagne di classe, i compagni fatti loro, è normale. Ma Non prendiamoci più in giro, e questo rientra comunque in un programma didattico. Sono cose che oggi i ragazzi possono organizzarsi benissimo per conto loro, si mettono d'accordo le famiglie, 10 famiglie, organizzano un viaggio ai loro pargoli e così saranno sicuri, avranno questa sorta di prova del fuoco, di aver fatto l'esperienza del viaggio assieme. Luigi l'ha detto, Gianfranco. Pronto? Sì, Gianfranco. Buongiorno, grazie per avermi fatto... Allora, io sono un insegnante, volevo solamente dire che molte gite scolastiche saltano perché non ci sono accompagnatori. Nessuno di voi si prende la briga di seguire questa roba qua? No, ci sono certe scuole che prima di fare una gita scolastica, prima di organizzarla, devono pagare una assicurazione perché sfasciano gli alberghi. Cioè, adesso non è che voglio generalizzare, ma capita spesso che in riferimento anche a quel povero ragazzo, insomma, a quello che è capitato, è difficile che due o tre insegnanti tengano la sera d'occhio 3-4 classi dove succede di tutto, cuscinate, gente che esce, che entra, che beve o altro, e molte volte i pullman tornano completamente sfasciati. Ma accade, adesso le dico qualcosa di molto malizioso che la coinvolgerà e le crea grossi problemi. Ai miei tempi gli insegnanti che accettavano di seguire le gite 3 giorni erano quelli che erano già tra loro storie clandestine. Ricordo un professore di scienze che si trombava a quella di ginnastica e loro andavano a tutte le gite scolastiche. Mi arriva voce che ancora questo accada, che siano delle coppie fisse dei professori, sono gli unici che accompagnano i ragazzi. Per loro è un'occasione di avere 3 giorni di totale uscita dal mondo e di lecita frequentazione del loro rapporto. Accade qualcosa del genere? Allora, che nelle scuole ci siano queste cose è anche vero. È anche vero che, quindi non arrivo alla sua soluzione, è vero che spesso sono sempre quelli che sono disposti a guarda caso. Poi ti viene la conclusione, non so se proprio bisogna fare 2 e più 2, però sono sempre quelli che si divertono anche a portare in giro degli alunni a ubriacarsi. Diciamo che per molti è un'attività ludica, quindi diciamo sarà difficile che siano un elemento di confronto e di diversità rispetto all'andazzo che ormai va da 30 anni, che in gita si va a far casino, è chiaro. Sì, aggiungo solo che per un insegnante, non so, che ha una famiglia normale con dei figli o altro, cioè pensare di uscire, andare 3 giorni a dannarsi l'anima, a tornare stanchissimo, arrabbiato, e poi trovarsi la mattina alla scuola con gli stessi alunni, molti dicono cercatevi qualcosa. Però guardi, vedo che non sono cambiati gli itinerari, chissà perché. No, a miei tempi si andava a Praga e si continua ad andare a Praga. Barcellona, certo, sì. Ricco di belli, soprattutto allora si andava nei paesi del blocco, della cortina di ferro, perché erano posti in cui i professori ci insegnavano, bisognava andare dietro con pacchetti di collan comprati al supermercato, penne, birra, rossette, profumi, e questo lo dico perché ne sono stato io testimone. Tra un istante, dopo il traffico. Melog, cronache meridiane. Stiamo entrando nel vivo di ciò che avete sempre saputo, non avete mai avuto il coraggio di ammettere o raccontare, riguardo alle gite scolastiche. Antico, sciatto, fuori del tempo rituale, per cui si prendono dei ragazzi assatanati e ormonalmente molto compressi. Nella stagione primaverile si ammassano tutti in un mezzo di trasporto, li si porta in luoghi dove possono fare una vita promiscua forzata per alcuni giorni, si permette che si imbottiscano di alcol o sostanze psicotrope di vario tipo, diano purganti a quelli più secchioni, a quelli che vogliono prendere di mira, facciano scherzi, le facciano di tutti i colori, con dei professori che o sono mandati in maniera coatta e coercitiva a seguire questa sorta di truppa scatenata, ma poco possono fare, o anche loro fanno in necessità virtù, vanno lì perché hanno occasione anche loro di uscire di casa, di allontanarsi di casa o di frequentare altri colleghi in maniera più diretta. Leggo qualche sms: no ragazze, no, ma ricordo mega vomitate, alcol e scambi di camere, tutti addormentati, bello, adesso i miei nipotini fanno uscite giornaliere culturali. Dove? Boh. Alberto, buongiorno. Allora, buongiorno. Diciamo la verità sulle gite scolastiche. La mia esperienza è stata bellissima, perché a parte che forse eravamo appena più piccolini, anche se eravamo smaliziati. Che anni erano, Alberto? Collochiamolo. 1981. 81. La settimana qui bianca in una struttura. Dove la settimana? Dove si ricorda? Eravamo al Gaver. Tra l'altro ci sono ancora tutti i villini singoli dove stavano dentro 7-8 persone, 7-8 ragazzi, con un insegnante o con il capo responsabile. Quindi ci siamo divertiti parecchio. Poi l'anno successivo, in terza media, invece abbiamo fatto la settimana verde itinerante. E come dicevo anche prima ai suoi collaboratori, è stata veramente una settimana indimenticabile per noi. Abbiamo camminavamo per 8 ore al giorno, e veramente. Quindi eravate belli stanchi, la sera non ci scappava di ubriacare. Sì, no, beh, ce l'hanno lo stesso. Ma cos'era, una sana scuola dei preti, quella vostra? Sì, sì, Però dica la premessa, è chiaro che queste cose alle scuole dei preti non accadono. Anch'io ho fatto i salesiani per un periodo della mia vita, lì non esisteva, non c'era storia, era una scuola pubblica normale, non era niente di particolare. Sì, ma era il principio sano di Don Bosco, vi facevano ammazzare di fatica durante il giorno, la sera eravate dei cadaveri, questo era un altro tipo di gestione. Eleonora, buongiorno. Buongiorno, io sono un'insegnante di 43 anni. E, diciamo che volevo un po' ricongiungermi a quello che era stato detto dall'ascoltatore precedente. Si ricongiunga, perché voglio sapere il punto di vista vostro. Sì, allora, io vorrei ricordare e sottolineare che gli insegnanti rispondono penalmente di tutto quello che accade in gita. Beh, minimo, vorrei vedere. E che sono in servizio H24 in quel momento, senza retribuzioni aggiuntive. Ma sono obbligati ad andarci? Cioè siete... No, non sono obbligati. Però assumono su di sé una grandissima responsabilità. Sì, ma se per paradosso tutti gli insegnanti che vanno in piazza e protestano su tutto, non fanno gli invalsi, non fanno gli scrutini, dicessero non facciamo più le gite scolastiche, finirebbe questo problema? Beh, in realtà noi questa cosa l'abbiamo anche fatta. E perché ancora ci sono gite? Perché sono dei crumiri che vanno a fare le gite? Purtroppo è vero quello che dicevate prima, che abbiamo una forte pressione da parte delle famiglie e dei ragazzi. Se uno dice non ci sono i professori, le famiglie si organizzano per conto loro. Oggi i tour operator non hanno difficoltà a mettere insieme un viaggio con dei ragazzi. Però vi assicuro che uno dei punti che quando facciamo l'orientamento ci viene immediatamente chiesto è se facciamo le gite e dove andiamo. È il problema delle famiglie. Quindi le famiglie vogliono le gite scolastiche perché vogliono o togliersi i figli per 3 giorni, forse questo è il problema, non credo, perché oggi togliersi i figli è estremamente facile, non credo. Poi non è che sono gratuite le gite scolastiche, nel senso che se 3 famiglie, 4 si mettessero d'accordo, organizzassero loro la gita per i loro pargoli, cosa cambierebbe? No, io sono d'accordo su questo. Io ritengo che, per carità, gli aspetti positivi di una gita scolastica li ricordiamo tutti. Me ne dica qualcuno, che io me l'ho perso un po' di vista. Guardi, tutti un po' da studenti abbiamo vissuto quei momenti con gioia, come momenti di aggregazione. Sì, di casino, pomiciate, trombate, bevute, ubriacate. Per carità. Questo c'è bisogno, ci pensa la scuola, scusi. No, io sono d'accordo con lei, assolutamente. Non vedo il momento didattico, cioè il momento didattico è portarli in un museo e farli ragionare sul museo, magari, sì, probabilmente. Sì, no, di giorno si fanno delle cose organizzate, ovviamente. Sì, ma se questi sono stati fino alle 3 di notte a sbombardarsi, dove li porta? Porta degli zombie? Si trascinano come degli zombie. Quindi mi dà ragione sul fatto che siano totalmente inutili. Marcello. Sì. Marciano. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Sì, la mia testimonianza è quella di uno che ha fatto la gita dell'ultimo anno superiori a Parigi e parlando con gli altri ragazzi che hanno fatto gite prima di me, eccetera, cosa resta della gita scolastica? Questo, cioè il desiderio di sfrenarsi al massimo, e resta poi di tutto questo ubriacature, casini. Che ci sta tutto, mica dico che non devono fare questa esperienza, se no passo per un padre trappista. Ma lo facciano con la scuola, lo facciano per conto loro, si organizzino. Bravissimo, infatti di questa esperienza resta come imprinting soltanto il desiderio di fare questo, di reiterare questo ogni anno, quindi il bisogno, diciamo, di andare in vacanza tutti gli anni a fare casino. E quindi hai ragione che dice, è un rituale, è una sorta di liturgia, nella liturgia scolastica. Esiste il momento, come c'era Risus Pascalis, che per Pasqua i preti si ignudavano e facevano una grande festa, una cosa scomparsa. C'è anche nell'iter scolastico andare a fare la gita e fare casino. Abbiamo capito una cosa in più, ma io già lo sapevo. Alla prossima.